Potete presentarvi, come vi chiamate, da dove venite, raccontarci qualcosa di voi? Certo. Io vengo da Rovereto e sono stata assunta in via Udine all'Arcobaleno Sole. Ho fatto un lunghissimo percorso. Come ti chiami? Mi chiamo Bassi Rosalba e ho 62 anni, ne faccio 63 il 4 giugno. Io da piccola ho avuto una brutta malattia, era la polio, e ho sofferto molto, sofferto moltissimo. Mia mamma mi è stata accanto, un futuro non ce l'ho, non ce l'ho perché ho sofferto troppo. Io avevo un sogno bellissimo, sogno che avevo da bambina, sono stati troppi anni passati. Di farmi una croce rossina suora. Tanti bambini muoiono e le mamme non sanno cosa fare, bisogna dargli una mano perché crescano bene, perché giocano, perché mangiano, perché dà un minimo di allegria, di consapevolezza, di stare assieme, uniti e divertirsi e fare tanti progetti. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Perché siamo in tempi duri. Bisogna affrontare quello che sta succedendo. Bisogna affrontare quello che sta succedendo. Io mi chiamo Flora e vorrei fare maestra d'asilo. Ma da dove vieni? Io vengo da Aldena e vorrei fare maestra d'asilo, però adesso che sono a Sacco vorrei farlo a Sacco perché vorrei dare tutta la gioia ai bambini, a quelli ammalati, a quelli che stanno sulla carrozzella, a quelli che non hanno la mamma né il papà, a quelli che soffrono tanto e a quelli che piangono pure. Sarebbe ideale, soprattutto per i bambini, perché so educarli bene e, come posso dire, posso dargli tanto affetto, tanta gioia, insomma, anche per le mamme, per i papà. Posso portargli le caramelle? La vogliamo noi la maestra così. D'accordo, sono Quindi siamo d'accordo. d'accordo.